qui l'incasso va tutto a Radio Onda Rossa, una radio libera dal 1977, qui di qualcuno qua dentro trasmette da queste frequenze 87.9 in FM. E insomma, inizieria, ringraziamo tutti i gruppi che hanno suonato e quelli che suoneranno dopo, insomma, e speriamo che vi siate divertiti e continuate a sostenere la radio, che non ha pubblicità, quindi non ha padroni, non ha padrini, e va avanti da parecchio tempo, libera nell'etere romano. Quindi vi lasciamo al concerto, grazie. Oh, God. Yeah. Yeah. questa è per Giacomo Valentino. Renato!